Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è presto per dirlo, ma il mondiale dei grandi strateghi sta diventando il mondiale di Maradona, e cioè di un improvvisatore, anche di un istrione se volete, ma di un fenomeno unico nella storia del pallone, in grado di trasmettere, lo si vede a occhio nudo, ai suoi giocatori e poi ai tifosi argentini tutta la sua passione trascinante per il calcio. Mentre questi strateghi pensosi, no? O sono già a casa come Domenech, o stanno per andarci come Eriksson, o rischiano seriamente come Capello oggi e Lippi domani. Una voce, un frammento dello show verbale di ieri sera di Maradona subito dopo quello che, come sempre, aveva consumato in campo. La marca canonata. Ogni volta che Messi prende la palla è un fallo reiterato. Ogni volta lo buttano a terra e nessuno viene mai ammonito. Io vorrei sapere a che gioco stiamo giocando. Perché non lo dice il referì? Cita nel regolamento, viejo. Diego, unico, un pezzo unico. E mi pare ricogliere che stiano crescendo anche le simpatie neutrali intorno all'Argentina. Poi vorrei proporre, anche su sollecitazione di un ascoltatore che ha scritto una bella mail, si chiama Massimo Strazzabosco, e ha segnalato come sulla Gazzetta dello Sport di oggi ci sia un'intervista che periodicamente Alberto Cerruti, un colloquio, fa con col vecchio Enzo Bearzot. Domanda, Bearzot, gli azzurri si aggrappano al precedente dei tre pareggi dell'82, lei trova analogie, non capisco cosa c'entri la situazione di oggi con quella di allora, è diversa ed è assurdo fare paragoni, perché? Quali sono le differenze? Primo, il valore degli avversari, noi avevamo fatto 0-0 all'esordio con la Polonia che aveva Boniek ed era una signora squadra, il Perù non era niente male e il Camerun con noi è riuscito a pareggiare solo per caso, non scherziamo, il passato è molto diverso dal presente, ma almeno può concedere a Lippi la speranza che la storia si ripeta, e qui arriva il graffio del vecio: se la storia si ripetesse davvero, poi l'Italia troverebbe Argentina e Brasile e non so se le converrebbe. Sentiamo, a proposito di Italia, due frammenti di una lunga conversazione di Albertini sul momento dell'Italia. La prima è sul ripescaggio possibile di Gattuso. Quello che serve, penso che il mister in questi giorni sia stato molto diretto anche con i giocatori, quindi si saranno parlati, il gruppo sa dell'importanza di questa partita, quindi chi scenderà in campo, sia se lo farà Gattuso, lo faranno gli altri, c'è bisogno di tutti per poter assolutamente in un modo o nell'altro portare a casa la vittoria. Ormai Rino ha più di 30 anni, è un giocatore sì con la grinta, ma c'ha anche grande esperienza, però ce ne sono tanti in questa squadra. Squadra, ma ambiente soprattutto, che è stata, non dico turbata, mi auguro proprio di no, però in ogni caso colpita dalle parole pronunciate ieri da Umberto Bossi. Testualmente, tanto la partita se la comprano, vedrete che al prossimo campionato ci saranno due o tre calciatori slovacchi che giocano nelle squadre italiane. La federazione ha reagito subito ieri sera con un duro comunicato, oggi ci sono prese di posizione, anzi prese di distanza molto nette da parte di leader politici anche dello stesso schieramento a cui appartiene Bossi e la Lega. Sentiamo una replica, un'osservazione di nuovo del vicepresidente federale Albertini. Questo deve rimanere come un grande evento, anche se sappiamo che la nazionale prima di tutto unisce l'Italia. Noi abbiamo fatto una nota non del presidente Abete, ma una nota da parte della federazione, quindi penso che la nostra risposta sia stata semplice, corretta e sì, soprattutto penso sia stata diretta, e quindi ci fermiamo alla nostra nota che abbiamo pubblicato ieri in risposta a quello che è successo. Io dico che l'Italia quando gioca al Mondiale lo dimostrano i telespettatori che sono davanti a vedere le partite, unisce, e quindi non c'era tanto bisogno di questa uscita proprio per aumentare ancora la coesione sia del gruppo interno e forse dei tifosi. È normale che tutti noi, da tifosi a dirigenti, da giornalisti, ci aspettiamo una grande prova e soprattutto la vittoria, ma penso che sia anche doveroso dire che questi ragazzi, cioè, alla loro portata quella di passare questo turno. Altri spunti di conversazione poi per la seconda parte del programma. Per esempio Luca da Arese dice: credo che il primo dato certo sia che le sudamericane stanno facendo meglio di tutte le altre. Questo mi pare, Luca, che sia un dato per ora incontrovertibile. Non dimentichiamo mai che siamo agli inizi del mondiale, o meglio siamo oltre la metà delle partite giocate, però poi il mondiale che conta davvero comincia sabato con gli ottavi di finale, anche se è chiaro che agli ottavi ci devi arrivare e devi prenotarteli attraverso risultati per esempio come quelli dell'Argentina, del Brasile, dell'Uruguay, che è forse la sorpresa principale sino ad ora, non solo per i risultati ma anche per l'autorevolezza, e questo è un dato indubitabile. Altro spunto, dicevo, i gol sono in calo, o meglio, dalla prima alla seconda giornata sono nettamente cresciuti, perché la prima giornata era stata la più povera di gol di tutti i tempi, con soli 25 in 16 partite. Poi nelle 16 successive da 25 si è saliti a 42, cioè ne sono stati segnati 42, il totale di 67 è un po' più decoroso, ma rimane pur sempre con una percentuale di 2.09 gol a partita, rimane pur sempre inferiore sia all'edizione 2006, che era stato di 75, che all'edizione 2002, che era stato di 81. Ora mi rendo conto che fa un po' ridere pesare i gol così col bilancino, però questo è uno dei parametri fondamentali che la FIFA adotta per valutare la spettacolarità di un mondiale. Il gol ad ogni costo, tant'è vero che questo famigerato Jabulani, questo pallone, che Adidas ha fabbricato, ma insomma su commissione, il committente della FIFA, è stato pensato proprio così, come dire, inaffidabile, così diverso, per creare imbarazzo ai portieri e comunque per rendere ancora più imprevedibili la traiettoria e quindi alzare il numero dei gol. Il problema è che è talmente inaffidabile, come ormai si è visto e capito, e come tanti giocatori, allenatori testimoniano, è talmente inaffidabile che i primi ad averne un danno sono proprio i giocatori di campo, che fanno fatica con questo attrezzo. Lo stesso Vecio Berzot, rispondendo stamane a un'altra domanda di Alberto Cerruti, ha detto, concludendo un intervento sul gioco dell'Italia, ha detto: e poi in ogni caso si gioca con un pallone schifoso. Ecco, l'ha messa in una sintesi delle sue. Il problema, scrive Giuseppe La Regina, è che siamo di una pochezza tecnica deprimente, piedi quadrati, gambe pesanti e poco coraggio. Ci sono molti messaggi che stanno arrivando di questo tono, anche se Mauro ricorda, per esempio, di solito chi parte correndo arriva camminando. Però è vero che nessuna europea ha mai vinto un mondiale fuori Europa. Beh, della crisi della vecchia Europa abbiamo parlato ieri, poi c'è un'Europa alternativa, no? Rappresentata da Spagna, Portogallo, volendo anche l'Olanda, che comunque è di più recente quarti di nobiltà, nel senso che risale agli anni 70, mentre per Inghilterra, Germania e Italia si parla di storia, si parla di origini del calcio addirittura, ma insomma sono tutti parametri e fattori da tenere presenti. Potremmo sentire, no, non possiamo più sentire le voci. Vi ricordo soltanto che interverrete più tardi sugli argomenti che vi ho proposto finora, ma su quello che meglio vi aggrada, evidentemente, all'800 24 00 24. Adesso, a proposito di 24, andiamo nello studio centrale di Johannesburg di Sky Sport 24 per ritrovare, come sempre, Fabio Tavelli. Fabio, buondì. Buongiorno a te, Gigi. Questo numero è una piacevole continuazione professionale, sì, no? È una coincidenza, in fondo è un sortilegio, se vogliamo anche una magia. A proposito di magie, raccontaci quella del vecchio Martin Palermo. Vecchio Martin Palermo è, secondo me, una storia fantastica, perché Martin Palermo a 36 anni è arrivato a giocare il suo primo mondiale, ha avuto bisogno di 9 minuti e ieri sera ha fatto gol. In molti hanno anche un po' sorriso quando Maradona ha deciso di portare Martin Palermo in nazionale, l'hanno considerato quasi una scelta, una gita premio per quel gol decisivo, fondamentale, che lui ha segnato nello scorso mese di ottobre contro il Perù al 93esimo, quando la nazionale di Maradona era con le spalle al muro e che rischiava una clamorosa eliminazione. Martin Palermo ha segnato quel gol, anche lì fatto di schierare Palermo per molti argentini che giustamente vedevano Milito giocare situazioni, in ambiti e con risultati diversi. Poteva sembrare blasfemo, ebbene Maradona ci ha creduto, l'ha messo dentro, si è qualificato, se l'è portato, con meno polemiche rispetto a prima, perché naturalmente anche Milito l'ha portato, e ieri Palermo ha segnato. Palermo ha una storia clamorosa alle spalle, perché cioè, certamente tutti ricordate i 3 rigori sbagliati contro la Colombia nel 99 in Coppa America. Martin Palermo è esattamente questo, è un giocatore che cioè, sinceramente faccio fatica a trovare anche un paragone con il passato, ma in questo momento io sono abbastanza sicuro che se Maradona negli ottavi o nei quarti o più avanti, insomma, deciderà la sorte o non solo, se Maradona a 5 minuti dalla fine avrà bisogno di un qualcosa, lui metterà dentro Martin Palermo, perché ormai è già successo, e quindi gli allenatori a queste cose credono, e a volte ci crediamo pure noi. Martin Palermo è in questo momento il talismano della certo, e comunque, conoscendo il passato di Martin Palermo, tutte queste cose che tu hai riassunto, ovviamente per brevità, sintetizzandole molto, le suggestioni che l'accompagnano, vedere ieri sera questo ragazzo 37enne, quindi insomma, no, già, calcisticamente ormai ha un anziano, anzi un vecchio, vederlo emozionare a quella maniera per quel tapin sulla traversa presa da Messi, e poi l'entusiasmo con cui la squadra lo ha festeggiato è stato per un gol platonico, oltretutto, perché già l'Argentina vinceva e nemmeno ne aveva bisogno, sono le cose che danno un senso a un mondiale, che lo rendono inavvicinabile da qualsiasi altra manifestazione, campionato, coppa o quello che ci pare. Parlaci adesso della famiglia Boateng. Famiglia Boateng, storie tese, perché il papà è ghanese e la mamma è tedesca. Tutti e due hanno fatto la trafila nelle nazionali giovanili tedesche, ma a un certo punto uno dei due, quello che troviamo nel Ghana, ha deciso di appunto giocare nel Ghana. Lui è un giocatore del Portsmouth, è un giocatore quindi del campionato inglese, finale di FA Cup, intervento duro su Ballack, caviglia che salta, Ballack che salta ai mondiali, al punto che la federazione ghanese si era poi sentita in dovere di scusarsi con quella tedesca. È evidente che si sapeva già che Germania e Ghana sarebbero stati nello stesso girone, ma il fatto che si sfidino questa sera in una partita decisiva con i due Boateng, che secondo me partiranno dalla panchina, infatti quello della Germania non ha ancora giocato un minuto e quello del Ghana è entrato negli ultimi minuti di entrambe le partite del Ghana, è un qualcosa di forte. Oltretutto mi risulta, e sono abbastanza certo di questo, che i rapporti tra i due siano tutt'altro che idilliaci, cioè che non si salutino neanche, che quindi ci siano delle storie abbastanza tese all'interno della famiglia Boateng. E tra l'altro, altra annotazione, il Boateng del Ghana, dopo l'infortunio di Balla, che è stato giudicato persona non gradita in Germania, quindi gli hanno mandato a dire che insomma, se gira al largo è meglio. Però, gli argomenti sarebbero evidentemente tanti, compreso per esempio questo ritorno inglorioso dei francesi a casa, ma su questo avremo poi tempo, perché io credo che da oggi in poi inizieranno rivelazioni un po' di ogni genere, e quindi ci si tornerà. Ne ho anch'io qualcuna, se vuoi, Gigi. Avanti. No, nel senso che intanto lo sapete che Henry ieri si è immediatamente staccato dal gruppo, verrà ricevuto da Sarkozy, credo già domani sì. Perché Henry è già tornato, verrà ricevuto e ci sarà un gabinetto speciale da parte del governo francese, ma anche è attesa una conferenza stampa nella quale dirà effettivamente quello che è successo, e cioè che Domenech non gli ha impedito di tenere una conferenza stampa per spiegare la versione dei giocatori, che Domenech ha preso tutto il proscenio lui per fare la conferenza stampa prepartita, quando sarebbe toccato anche al capitano essere presente, e racconterà quello che è successo il giorno dell'ammutinamento e dirà anche il perché gli è stata tolta di fatto la fascia, cioè non è stato fatto giocare con la Francia, non è stato fatto entrare in campo. E questo non sarà che l'inizio. Bafana Bafana. Certo, non sarà che l'inizio della seconda fase, perché poi tutto quello che di più grave poteva accadere per la Francia è già accaduto, e l'eliminazione è il meno rispetto alla figura che hanno fatto. Ma poi abbiamo parlato già anche ieri del giacobinismo, insomma, che evidentemente ricorre nella storia di questo paese, anche nella stampa di questo paese. Ma io sono convinto che poi ne usciranno le altre. Le partite di oggi sono quattro, e dicevo all'inizio che c'è nel mondiale che è diventato dell'istrione Maradona, ma istrione lo dico mettendomi sull'attenti ovviamente, insomma i maestri pensosi, i grandi strateghi come Capello oggi pomeriggio rischiano l'eliminazione, poi nessuno gliela augura evidentemente, stasera rischia la Germania, è un'altra giornata che non è soltanto di avvicinamento a quella dell'Italia di domani, ma è un'altra giornata che rischia di pesare molto sul mondiale. Rischia di pesare tantissimo, Gigi, perché oggi la FIFA, e dico la FIFA, ma anche tutti noi, potremmo perdere Germania e Inghilterra. Una delle due, nessuna delle due, o anche tutte e due. Ci potrebbe anche essere un ottavo di finale Germania-Inghilterra. Ci potrebbe essere anche la monetina, perché Stati Uniti e Inghilterra hanno gli stessi punti e la stessa differenza reti. Hanno però segnato un numero di gol diversi. Se finisse 0-0 la partita dell'Inghilterra, se vinse 0-0 la partita degli Stati Uniti e l'Inghilterra pareggiasse 2-2, andremo addirittura al sorteggio tra le due. Eventualità remote ma non remotissime, così come quella dell'Italia di andare al sorteggio con la Nuova Zelanda. Però oggi ci sono 8 squadre in campo, tutte e 8 possono passare. La speranza dell'Australia è abbastanza teorica, perché ha un punto solo ma ha una differenza reti veramente pesante, perché è -3, però così come ieri, poi intendiamoci, non è un mondiale bello tecnicamente, però un mondiale che i primi quattro gironi, cioè A, B, C e D, ha delle situazioni che sono apertissime alla terza partita. Questo e già vero. Il fatto che ieri Uruguay e Messico la partita l'abbiano giocata, secondo me depone a favore di un torneo che, ripeto, non ha ancora raggiunto vette importanti, ma io mi aspetto che possa crescere da questo punto di vista, e per quanto riguarda l'equilibrio regala certamente tensione, perché comunque tutti e due i gironi di oggi sono apertissimi. Tutti lo speriamo, Fabio, che decolli qualitativamente in senso complessivo, fermo restando che io ho visto edizioni di mondiali in cui dopo le prime due giornate non c'erano squadre che giocavano il calcio di Brasile e Argentina. Sì, vero. La qualità di queste due fino adesso, in crescendo oltretutto, soprattutto per quello che riguarda il Brasile, non è da mondiale tecnicamente scarso, è scarso. Se si scende sotto il livello di queste due, almeno a parer mio. Ma io concordo pienamente, Gigi, lo dico perché tante volte leggo, sento dire, ma insomma mancano i grandi campioni, non si vedono le grandi giocate. Insomma, andate a rivedervi il gol di David Villa l'altra sera, sì, io certo. Credo che quel gol lì sia un gol che vale la partita, come certo. Stanno giocando la Spagna, che pure rischia, come sta giocando il Cile, cioè non mi sembrano nazionali che non abbiano divertito, anche se poi la Spagna la prima partita l'ha persa. Se a questo ci aggiungiamo un equilibrio straordinario, insomma, trovo che sia un mondiale accettabile, più come che no. accettabile. Come no? Chiuderei, e hai non più di 30 secondi, per raccontare una cosa che ho letto stamane sulla tua rubrica sul Giornale di Brescia, e ripetessi soprattutto una battuta in dialetto che tu hai scritto, nel tuo dialetto bresciano. Allora, racconto sintetico e chiusura con battuta in dialetto. No, il racconto sintetico è di un ascolto di una radiocronaca in lingua Zulu ieri pomeriggio del secondo tempo, e al momento in cui poi Bafana e Fofana sono stati eliminati, il mio driver, insomma il ragazzo Jonathan che mi porta avanti e indietro tutti i giorni, mi ha detto insomma peccato, perché se ci fosse stato il passaggio del turno del Sudafrica avremmo avuto le vuvuzela tutta notte, avremmo suonato le vuvuzela tutta notte. Io gli ho risposto allora mei se, cioè gli ho risposto in dialetto bresciano, cioè allora meglio così. Lui mi ha un po' guardato incuriosito, io gli ho risposto apposta in una lingua per lui incomprensibile, come certo. se lui avesse parlato a me in Zulu, per evitare che poi glielo traducessero, certo. perché sai, effettivamente passare tutta la notte con le vuvuzela, dovendomi anche alzare presto, era... è stato meglio così. Se nel frattempo il rider, allora meglio così. Certo, se il rider nel frattempo si documenta sui dialetti, non ti vedo benissimo nei giorni a venire. Grazie Fabio Tavelli. E lui abbia le stesse possibilità che ho io di capire lo Zulu, perché sì, questo, sono lingue abbastanza simili, questo come è abbastanza per i non indigeni, quindi è abbastanza, sono abbastanza tranquillo. Avventurarsi nei dialetti dell'Iseo e dintorni non è semplicissimo. Sarò un inguaribile ottimista, scrive Mattia da Modena, ma attenderei a coprire la fossa dell'Italia prima di vendere il badile. La formula è un po' come dire, no, no. è un po' necrofila, però, però il concetto è non solo balza, no? si staglia, ma il concetto è ampiamente condivisibile. Infatti mi pare che in pochi stiano, no, affannandosi a cercare di piazzare sto badile. C'è molta attesa, anche perché insomma, chi, va bene, lasciando stare poi le distinzioni tra chi per l'Italia tifa, tra chi per l'Italia meno, tra chi sull'Italia, anche sull'Italia fa il capitan fracassa, insomma, lasciando stare queste cose penose, rimane comunque un concetto che un mondiale con l'Italia è più ricco ed è più divertente, comunque, a prescindere, di un mondiale con la Slovacchia, con tutto il rispetto, piuttosto che con la Nuova Zelanda, insomma. Mario è in linea da Pescara, buongiorno. Buongiorno a lei, salve Anzi. Dica. Senta, allora, prima di tutto Pescara, abbiamo vinto i playoff e siamo in Serie B. E fin lì siamo arrivati. Poi, discorsi da bar, io sono lontano dalla Padania e da Bossi, però la prima cosa che è venuta in mente, perlomeno a me e degli amici parlando, è: ma sì, ma tanto ce la compriamo la partita con la Slovacchia, cioè, quindi non lo so, io credo che sia stato un po' il sentimento, ha interpretato un po' il sentimento degli italiani. Sì, cioè, potrebbe essere, dice lei, l'ennesima volta in cui la Lega riesce a intercettare le pulsioni, no? Sì, secondo me il sentimento della gente, ripeto, poi io parlo per me, per la mia terra, ma così con gli amici eccetera, scherzando, sì. Siamo lontanissimi dalla Padania. No, d'accordo, con le pulsioni culturali profonde la Lega le intercetta con discreta facilità, e questa è una novità, è la spiegazione di un successo d'altra parte che ormai è data da molto molto tempo. Rientrerei più volentieri nel mio ambito, però, se fosse possibile, perché quello mi è leggermente, come dire, è a rischio per me, per come la penso, ecco, mettiamola così. Massimo, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, la domanda era relativa a signor Domenech. Sì. O meglio, io ricordo Domenech, ho 47 anni, lei ne ha qualcuno più di me, e sicuramente poi per mestiere ne sa più di me, ma io ricordo Domenech che faceva il commissario tecnico dell'Under 21, che già ai tempi ebbe un alterco con Cesare Maldini, adesso non ricordo bene per quale motivo, ma prima di allora che cosa ha fatto, meglio, quali credenziali ha maturato per fare il CT della nazionale francese? Cioè, io non lo ricordo né come allenatore di club né come grande giocatore, volevo illuminarmi su ma Massimo, penso. Come allenatore di club, che il fatto che un allenatore di nazionale debba essere stato un grande allenatore di club è una stortura del calcio moderno, a parer mio almeno. Le nazionali erano molto più forti e più credibili un tempo, quando venivano dai ranghi federali e crescevano attraverso le nazionali giovanili, per arrivare poi il cursus sonorum, per dire, di Berzot. Così facciamo un esempio concreto, sintetizziamo e insomma ricitiamo oggi una volta in più uno che qualcosina per il calcio italiano mi pare abbia rappresentato. Io credo che ci si tornerà poco alla volta. L'attuale scelta che è stata fatta, cioè quella di Prandelli, Non è in questa ottica, perché Prandelli viene pur sempre anche lui dal mercato, diciamo, cioè dal club. Però credo che a Prandelli verrà chiesto, e a maggior ragione se la spedizione italiana dovesse finire per tempo, credo gli verrà chiesto un lavoro in profondità, e credo che da qua in avanti si andrà verso un ripristino, insomma, di quel concetto. Cioè, non vorrei tornare a rimetterla in politica, insomma, la separazione delle carriere, ecco, mettiamola così, tra chi si occupa di nazionale e chi si occupa di club. All'estero in alcuni casi funziona ancora così, e Domenech è uno di questi casi. Cioè, non ha nessuna importanza se Domenech, a parer mio almeno, non aveva allenato alcun grande club prima. Il problema è che la nazionale l'ha allenata. Ha avuto dei problemi seri con l'Under 21, ma problemi comportamentali che già avrebbero dovuto far riflettere la federazione francese. Poi gli è stata data la chance della nazionale maggiore. Lui se l'è giocata molto bene nel 2006, perché è arrivato in finale, ma se l'è giocata molto bene grazie soprattutto a Zidane, fino all'impazzimento finale di Zizou, e poi è stato confermato successivamente, e soprattutto in maniera incredibile dopo il fallimento all'europeo del 2008. Alessandria, Walter, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo intervenire esprimendo la mia opinione sull'Argentina. Sì. Da italiano, io mi auguro che vinca l'Argentina, perché è l'unica squadra che ha tutte quelle cose che fanno sognare. E detta come i grandi scrittori di sport, ha poesia, c'è tutto, e quindi deve vincere. Ancora lei citava Palermo, che ha fatto giocare, ha segnato, e Maradona, e Messi, e quei giocatori che comunque che sono titolari, che non sono nelle grandi squadre, e quelli che hanno vinto Champions e cose, che partono in riserva. Comunque, in un gruppo in cui, io ho visto la partita ieri, traspare armonia e ha quell'ingrediente che io chiamo poesia, per la quale l'Argentina deve vincere. Spero che alzino la Coppa del Mondo. Oh, ma Walter, la capisco in pieno. Se poi aggiungiamo che ieri aggiungiamo altri due elementi a quelli che ha detto lei. Uno è che ieri ha giocato praticamente tutti i rincalzi, salvo Messi e Verón, e quindi questo dà un significato in più. L'altra è che l'Argentina ieri, o comunque diciamo magari un'Argentina ad altri tempi, avrebbe potuto tranquillamente perdere con la Grecia, perché, o comunque non impegnarsi a fondo per vincere, perché anche con una sconfitta col minimo scarto sarebbe passato ugualmente da prima nel girone, e invece ha giocato seriamente, come molto seriamente ha giocato l'Uruguay col Messico. Quindi, prima di screditare il livello complessivo di questo mondiale, io terrei conto anche di questi parametri che in altre edizioni non c'erano state. Da Catania, Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Volevo dirle, volevo rafforzare il concetto dell'ascoltatore di Alessandria, dicendo proprio il fatto, anche l'episodio ieri di Palermo, visto che lei ne parlava col suo collega da Johannesburg. Certo. Io penso che, ecco, l'episodio di ieri, tutti i giocatori che lo abbracciano, un giocatore che a 36 anni fa il primo mondiale, abbia quel pizzico di romanticismo che piace a tanti tifosi come noi, e credo, se la conosco un po' ascoltandola per radio, piaccia anche a lei. Ah, non c'è dubbio. Ecco, e in più, parlando di strateghi, mi permette il termine, un po' sfigati, io piacerebbe ricordare, più che Capello, ricordare Tabárez, che con l'Uruguay si sta presentando in una maniera molto, molto, molto positiva. Al contrario, quindi, di presunti, no? Sì, esatto, certo. Esatto, ecco. No, d'accordo, questo è ampiamente vero. Sentiamo un paio di voci che arrivano grazie al nostro inviato Dario Ricci dal Sudafrica, voci di italiani, italiani di adozione, che stanno giocando in altre squadre, per esempio il portiere laziale dell'Uruguay, Muslera. Non so se siamo una sorpresa, sì crediamo in noi, e sappiamo che abbiamo una grande squadra per fare una gran competenza, e si sta vedendo. Stare tre partite in un mondiale senza gol, senza ricevere nessun gol, è una cosa troppo, troppo importante. Vabbè, uno lo prende tranquillo per avere fiducia e continuare nella stessa strada. Ecco, un Uruguay che riesce a mettere in campo i suoi tre gioielli, Suarez, Forlan, Cavani, e mantenere l'equilibrio. C'è anche la mano di Tabárez, no, in questa grande squadra. Certo, cioè, noi per la qualità del giocatore che abbiamo possiamo giocare in diverse forme, cioè, abbiamo dimostrato di giocare con due punte, con tre punte, abbiamo dei giocatori di caratteristiche importanti, e anche Tavares su questa cosa sa farle bene. Ma vi aspettavate di poter vincere addirittura questo, che era uno dei gironi più equilibrati? Ovviamente uno viene sempre con fiducia, noi sapevamo che era un girone difficile, molto, molto competitivo, però come noi siamo una squadra competitiva, avevamo quella fiducia di poter passare a primi o secondi. Vero, stiamo attenti con l'Argentina, scrive Rosario, a volte chi vola nel girone poi crolla subito nella partita secca, perciò speriamo di no, caro Rosario. È vero, comunque, storicamente questo è vero, bisogna sempre distinguere se il girone, non dico trionfale, ma insomma il girone molto positivo ti porta a credere di più in te stesso, oppure ti porta a credere troppo in te stesso, è lì. Però io confido in Maradona, che questa avventura nell'86 l'ha vissuta al livello più alto, avventura personale e poi di trasmissione al resto del gruppo. Vedo che c'è anche un ascoltatore napoletano collegato, credo che ci sarà spazio per lui subito dopo l'ultimo intervallo. Mi piaceva ancora, però, visto che arriva lo spunto napoletano, pensare che domani anche un confronto tra due potrebbe esserci un confronto tra due napoletani doc come Maggio da una parte o Quagliarella in alternativa e Hamsik dall'altra. Il problema è che Hamsik giocherà di sicuro, Maggio un pochino più difficile. Sentiamo cosa l'Azzurro pensa del compagno di squadra e domani rivale. No, non l'ho sentito, ma sicuramente gli manderò un messaggio. Un giocatore, oltre che un bravissimo giocatore, un bravissimo ragazzo che gioca con me a Napoli, quindi sicuramente mi farà molto piacere incontrarlo, e quindi niente, speriamo che si comporti bene, ecco. No, comunque faccio in bocca al lupo la partita, come è giusto che sia, e se magari possiamo scambiarci la maglietta, vedremo un po', insomma, ecco. Per scambiare la maglietta bisogna poi appunto essere in campo. È una delle ipotesi che si fa, quella di Maggio, però tra le tante, perché le idee non sono chiarissime ancora sulla formazione, tra le tante mi sembra una così a occhio delle più remote. Il ripasso consueto a questo punto del 23 giugno, una data ricchissima di coincidenze mondiali che riguardano l'Italia e non. Sentiamo quella innanzitutto che ha scelto in copertina Nicola Filippone. Sembra ieri. 23 giugno 1990. Per la prima volta una squadra africana arriva tra le prime otto in una fase finale mondiale. L'impresa riesce ai Leoni Indomabili del Camerun, che a Napoli sconfiggono agli ottavi la Colombia per 2-1 dopo i supplementari. È un successo che porta la firma di un vecchio bomber entrato a partita in corso, Roger Millat, classe 1952, autore di una doppietta tra il 106esimo e il 109esimo. La prima rete arriva con una conclusione imparabile al termine di una serpentina, mentre il raddoppio è un capolavoro di astuzia, agevolato da un folle tentativo di dribbling del portiere colombiano Higuita. Millat, già decisivo nella prima fase con una doppietta alla Romania, diventa così il protagonista inatteso dell'avventura mondiale camerunense. Dopo un'onesta carriera in Francia, si era ormai ritirato da più di un anno dal calcio professionistico. Pare fosse stato il presidente del Camerun in persona, Paul Biya, a convincerlo a partecipare ai mondiali. Pensate che Miglia era in campo 8 anni prima, il 23 giugno di 8 anni prima, a Vigo, nel pareggio Italia-Camerun 1-1. Altri precedenti dell'Italia in questa giornata, il 23 giugno 74, drammatico, addio dell'Italia ai mondiali tedeschi, con l'1-2 dalla Polonia, Sarma che deina per i polacchi, e poi Fabio Capello, ecco, Fabio Capello che quel giorno segnò il gol cosiddetto della bandiera per l'Italia. Poi vi ho detto l'1-1 Italia-Camerun, 23 giugno 94 l'Italia batte 1-0 la Norvegia, e fu quella gara incredibile in cui si infortunò Baresi, che poi riuscì a recuperare soltanto per la finale in maniera miracolosa. Espulsione di Pagliuca per fallo fuori area, entra Marchegiani e Roberto Baggio, che insomma di cui si carpisce quel labiale, questo è pazzo, riferito a Sacchi, e poi nel secondo tempo il gol del suo omonimo Baggio, ma nel senso di Dino. E infine 23 giugno 98 Italia-Austria 2-1 al mondiale francese, con gol di Vieri, di Roberto Baggio e un rigore di Herzog nel finale. Giorgio ha chiamato dalla provincia di Forlì, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo sottolineare una cosa di Cannavaro. Nella partita con la Nuova Zelanda stava salendo Chiellini, poi si è girato e Cannavaro ha detto no, sta indietro, e questo lo guardava come dire qui se non saliamo. E nel dopo partita, e il gol, diciamo che dei due gol, secondo me Cannavaro ha grossa responsabilità, quel che ha avuto nella Juventus tutto il campionato, si è un po' battibeccato con folcloristico Galeazzi, che gli dice ma come, qui se volete fare una colpa a me, cosa volete fare una colpa a me? Allora lui è il capitano, è chi dirige la difesa, e abbiamo una difesa che non fa sentire tranquilla la squadra. A me non fa paura l'attacco, perché noi con le squadre la partita dobbiamo farla noi, non siamo mai stati forti. I mondiali noi li abbiamo sempre vinti con le squadre che dovevano far loro la partita, e quindi passando con le squadre grosse possiamo anche migliorare, ma ci vuole un gran Pirlo, almeno un attaccante che entra in stato di grazia, e questa difesa mi fa un po' paura, ecco. E mi fa paura un capitano che dice ce l'avete con me, ma come, te sei il capitano, sei tu che per primo dici sì, palle, due gol, cioè due palle, due gol, la colpa è della difesa, cioè non è del mondo. No, Giorgio, io non sono tanto d'accordo con lei. Capitano... Cioè, se essere capitano significa prendersi una responsabilità collettiva, un conto, ma che se quelle due azioni fossero venuti su, cioè se quei due cross fossero venuti non da fermo ma in azione, allora la difesa potrebbe aver avuto delle responsabilità di piazzamento. Ma se sono dei calci di punizione frontali, tra l'altro da molto distante, e la squadra subisce gol in quel caso, io credo che le responsabilità siano di tutti, nel senso che c'è tutta una squadra schierata per marcare gli avversari e provare a impattare il pallone prima per respingerlo. Se poi aggiungiamo che nella prima circostanza De Rossi si è preso giustamente la colpa individuale dell'errore, sinceramente non condivido. Che poi Cannavaro, che era partito secondo me splendidamente nell'avvio della prima partita, poi dopo quel gol e progressivamente nella seconda partita non si è più sembrato così autorevole, allora questo è un altro discorso. Dino Napoli, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Io premetto che sono tifosissimo del Napoli, quindi quando si parla di Maradona, come dire, non c'è partita, però voglio anche dire che tifo innanzitutto per l'Italia e ho tifato per l'Italia nella famosa semifinale Italia 90, del 90 che ho visto dal San Paolo, e ho tifato per l'Italia fino all'ultimo. Però vedere questa Argentina con Maradona ci fa veramente battere il cuore. E una cosa le volevo chiedere da tecnico: quanto c'è di Maradona realmente in questa squadra? La ringrazio e l'ascolto alla radio. Grazie a lei, Dino. Il 100% direi. Cioè, il 100% vuol dire anche gli errori di selezione, no? Perché sinceramente Zanetti e Cambiasso il loro posto lo tenevano come minimo, e sono due giocatori che qui abbiamo ben sotto gli occhi e di cui quindi è facile parlare. Poi potrebbero essercene anche degli altri, evidentemente. Quindi c'è come dire il discutibile, ma c'è soprattutto il trascinante, perché se noi ricordiamo come Maradona è arrivato a questa nazionale, cioè quali sono state le sue prime sortite, quali sono state le prime i primi tempi, le prime difficoltà, una qualificazione raggiunta per miracolo quasi. E poi invece adesso vediamo, una volta arrivato nel suo habitat vero, che è quello del mondiale, vediamo che cosa Maradona sta facendo e sta dando, e quanto sia contagioso non soltanto con la squadra, dicevo, e con la sua tifoseria, ma un po' con tutto il mondo. Insomma, credo che ci sia il 100% del suo essere un CT antitradizionale, antistorico, ma uno che interpreta il suo ruolo in un modo forse abbastanza inedito, e per questo meritevole di attenzione. Questo mi pare, almeno. Vincenzo, Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ma, vorrei fare riportare un attimo proprio su una questione prettamente tecnica. Quello che contraddice molto quello che diceva lei prima di Cannavaro. Cannavaro ha delle responsabilità, e chi è stato in piedi in uno spogliatoio e non a sedere lo sa bene. Cannavaro ha un'esperienza notevole, grande capitano di due mondiali, non di uno solo. Però sta mestierando. Noi nelle palle, come lei dice, da fermo, purtroppo si decide le partite, e noi abbiamo solo un giocatore idoneo per quelle palle, si chiama Chiellini. Non possiamo permetterci di non avere un altro uomo, come era Cannavaro, che andava a cercare la palla, a rimediare gli errori. Lui oggi gioca per non sbagliare. Vincenzo, sì, questo in parte o in buona parte è vero, però è una responsabilità di scelta allora di chi lo mette in campo. Ma se lei mi dice che, o se voi mi dite che la colpa di quei due gol è soltanto di Cannavaro, io non sono d'accordo, perlomeno, fermo restando che non ha alcuna importanza, perché i due gol sono dentro da alcuni giorni, no? Quindi se mai si tratta di vedere cosa riescono a fare per evitare quelli di domani. Filippo Aureggi in regia, Flavio Suarni in redazione, grazie, buon pomeriggio a tutti, a domani. A tempo di sport.